Focus Economia di Sebastiano Barisoni. A 7:10 minuti inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo di tre vicende, apparentemente, ma non solo, anche oggettivamente molto diverse. Una si chiama Ilva, l'altra si chiama Fincantieri su Saint-Nazaire e con l'acquisizione francese di Saint-Nazaire, e l'altra si chiama Alitalia. In realtà cerchiamo, come anche ha fatto il Sole 24 Ore, di tenere assieme tre temi con tre vicende, ripeto, che hanno storie molto diverse, ma hanno in comune il fatto di essere tre partite industriali decisive. Nel caso di Fincantieri, decisiva anche per capire rapporti di reciprocità veri con la Francia. Abbiamo sempre detto che ben vengano gli investimenti francesi se mancano investimenti italiani in questo paese. Non è vero che ci sia la colonizzazione, spesso sono investimenti veri che aumentano anche il valore delle aziende che vengono comprate, penso alla moda ma non solo, però non è possibile che ogni volta che c'è un'acquisizione italiana di un gruppo solido più grande rispetto a quello che va ad acquisire, è solido come in questo caso Fincantieri, in Francia si dica sì e poi si faccia dell'altro, se no la reciprocità, e penso anche alla vicenda invece meno così valorizzante di Bolloré su Mediaset o addirittura di Bolloré di Vivendi su Telecom, se no qui la reciprocità resta solo a parole. E invece abbiamo visto che Macron ha subito fatto una parziale retromarcia su un accordo che sembrava già firmato. L'altra partita industriale delicatissima riguarda l'Ilva. Anche qui facciamo notare al governatore emiliano che la regione Puglia poteva fare molto in questi anni, non l'ha fatto. C'è un'offerta che ormai è diventata l'unica ad aver vinto la gara alla Salomitar. Cerchiamo di capire che cosa si possa ancora ottenere come margine sul fronte occupazionale. E però è una parità industriale fondamentale, perché quello è il primo gruppo siderurgico in Europa e l'Italia è il secondo produttore di acciaio in Europa. Quindi perdere, diciamo, o non valorizzare quello stabilimento è una parità industriale. Il terzo riguarda l'Italia, e chiaramente anche qui questa volta di mezzo non ci sono i francesi, ma semplicemente il fatto che sono state aperte le buste, 32 manifestazioni di interesse. Domani incontro il Ministero del Lavoro sulla cassa integrazione straordinaria. Lufthansa ha precisato: non compriamo l'Italia, ma guardiamo, siamo interessati alla flotta. E consideriamo comunque anche con interesse gli slot, quindi i diritti di decollo e atterraggio negli aeroporti italiani, perché l'Italia è un mercato importante. Anche altre dichiarazioni sono arrivate in questo senso, però insomma, la partita è ancora tutta da giocare. Sono tre partite, ripeto, su tre settori industriali molto diversi, ma tutte e tre cruciali. Ancora, oltre a questo, ci occuperemo invece delle banche popolari. Perché? Perché di nuovo fa notizia il Banco Popular in Spagna, che ha perso il 50% del suo valore in 4 giorni. La capitalizzazione è ridotta a 400 milioni di euro. Pensate che un anno fa la banca valeva 6 miliardi di euro, oggi sta perdendo un altro 5% circa. Stanno oggi cercando i due presidenti stanno incontrando a Francoforte i vertici della Banca Centrale Europea. Uno può dire: ma chi se ne frega, è un problema delle banche, di una grossa banca spagnola, con tutti i problemi che abbiamo noi con le nostre banche. No, perché tra l'altro, siccome si sta cercando una soluzione simile a quella del Monte dei Paschi, la direzione della banca, del Banco Popolare, continua a sostenere infatti che la soluzione è l'aumento di capitale, però resa molto complicata dal fatto che si sono sfilati tutti i grandi azionisti. Standard & Poor's dice: non c'è rischio contagio su altre spagnole, ma questo ci permette poi di parlare delle nostre banche, e in particolare di Veneto Banca Popolare di Vicenza, che sono ancora incagliate dopo la richiesta di Bruxelles di tirar fuori 1 miliardo dai privati se si vuole ottenere i 3 miliardi e 700 milioni del tesoro. dello Stato, prima doveva essere tutti del Tesoro, per un'operazione che complessivamente vale 6 miliardi e 400 milioni, ma 940 arrivano da Atlante, 700 arrivano dalla conversione delle obbligazioni subordinate. In questo il Tesoro doveva farsi carico del resto. Bruxelles ha detto no, attenzione, la ricapitalizzazione preventiva, se volete farla, occorre che venga messo un miliardo anche dai privati. Su questo l'ipotesi, però vedremo se è un'ipotesi e basta o c'è qualcosa anche di più fondato, è che il problema dei non performing loans, delle sofferenze bancarie in Spagna e la crisi di una banca come Banco Popular possa indirettamente quasi avvantaggiare l'Italia, perché per adesso, visto che Germania, Olanda, Francia si erano sistemate le banche negli anni in cui si poteva fare, buttando dentro decine e decine di miliardi di soldi pubblici tedeschi, addirittura la Germania 174 miliardi, ma si poteva fare. Se il refrain è tanto ormai le sofferenze bancarie sono un problema solo italiano, e magari ci aiuta anche poter dire, beh, attenzione, le sofferenze bancarie sono un problema italiano, in questo caso anche spagnolo, quindi vediamo di trovare una linea e un approccio sistemico, non ogni volta caso per caso, e nella speranza che si sblocchi la vicenda delle Venete, dove però nel frattempo stanno capitando un po' di cose interessanti, perché cioè è partito il sequestro contro gli amministratori della Popolare di Vicenza, ma il GIP ha permesso all'ex presidente Zonini di farla franca, perché si dichiara incompetente sull'accusa dell'ostacolo all'autorità di vigilanza, e ha trasferito il fascicolo a favore dell'autorità giudiziaria milanese. Una vicenda però che è stata impugnata dal procuratore di Vicenza Antonino Cappelleri, perché davanti alla Corte di Cassazione un decreto considerato abnorme. Infatti il GIP si era dichiarato incompetente per il reato di ostacolo alla vigilanza esercitata dalla Consob, che secondo il magistrato spetterebbe a Milano, però ha proceduto sull'altra specie di reato, l'aggiotaggio. Questo mentre c'è anche una polemica interna alla magistratura, perché il procuratore generale di Venezia Vincenzo Condorelli, in una lunga intervista concessa a Corriere del Veneto, se non ricordo male, ha parlato di ombre sul passato per le inchieste sulla Popolare di Vicenza che si incagliarono. Lui dice Procura della Repubblica di Vicenza e Vigilanza, che a casa mia vuol dire la Banca d'Italia, rimasero inerti. E qui dovremmo tornare a raccontare anche alcune cose un po' singolari. Dice tra l'altro il procuratore capo di Venezia: è chiaro che questo disastro alla Popolare di Vicenza affonda le radici in quegli anni, che la Procura di Vicenza non riuscì a fare la sua parte, almeno non fino in fondo, nel controllo di legalità dell'amministrazione della banca e anche sull'operato degli stessi organi di vigilanza. Tra l'altro ricordate la vicenda di Cecilia, poi la ricordiamo, di Cecilia Carreri, che ha puntato il dito contro l'ex procuratore di Vicenza Antonio Foiadelli. Foiadelli chiese di archiviare un'inchiesta che dimostrava che mancava ogni forma di controllo sulla gestione verticistica e padronale di Zonin, e poi voglio dire a quel tempo invece fu messa sotto accusa la stessa Cecilia Carreri. Perché lo dico? Perché quando parliamo della Popolare di Vicenza c'è una cosa che balza agli occhi, poi uno può pensare che siano solo coincidenze, ma sono tutti i rapporti intercorsi con gli allora vertici della Popolare di Vicenza. E adesso lo voglio ricordare, io non conosco Antonio Foiadelli, era procuratore di Vicenza, però mi chiedo dov'è il dato, com'è possibile che vi fossero alcuni elementi di intreccio, perché Foiadelli trattenne l'inchiesta e chiese l'archiviazione per Zonin e per il consigliere delegato Glauco Zaniolo, e poi invece vi furono tutto un insieme di vicende successive. Però dopo ricorderemo anche uno strano rapporto e intreccio tra figure che dovevano vigilare e che invece non hanno vigilato. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. sì. Ne parliamo dopo, ma attenzione, Fogliadelli poi diventò consigliere di Nord-Est Merchant SRL e ormai Pasetti consigliere di Banca Nuova, quindi attenzione. Comunque, andiamo al resto della giornata. La borsa più 0,10%, Milano, meno 0,70% Parigi, meno 1% Francoforte, meno 0,12% Londra, meno 0,14% il Dow Jones. Euro, un leggero rafforzamento a 1,12,72. Tra i titoli A2A più 1,80, Fineco Bank più 1,5, Enel più 1,30 come Terna, Snam più 1% come Eni, invece male Yux Net a Porter meno 2,80, Saipem meno 1,80, BPR Bank meno 1,70, Moncler meno 1,60, Banco Popolare BPM meno 1,40%. Ancora per quello che riguarda i temi diciamo di carattere internazionale, segnalo che oggi, al di là della vicenda Banco Popolare, c'è anche una speranza che il dialogo tra Stati Uniti e Unione Europea passi per il cosiddetto TTIP dopo le tensioni legate al clima. Questo insomma il quanto ha detto a una conferenza internazionale il segretario del commercio americano Wilbur Ross. Invece, per quello che riguarda l'Italia, l'Istat segnala oggi un'accelerazione dell'andamento economico in Italia, trainato dai consumi e dalla crescita del settore dei servizi. Il mercato del lavoro migliora, segnando un aumento degli occupati e una significativa diminuzione della disoccupazione, sono i dati della settimana scorsa. Devo dire che oggi il rapporto congiunturale di Federmeccanica, che riunisce tutte le aziende del settore metalmeccanico italiano, segnalano una produzione in rialzo del 3,8% sul primo trimestre 2016, ma un calo congiunturale meno 0,6% rispetto all'ultimo trimestre dell'anno. Di Federmeccanica parleremo perché da questo punto di vista il rapporto è interessante, anche perché dà un chiaro segnale di un movimento sul fronte della meccanica italiana, mentre segnalo anche che è stato ufficializzato l'arrivo del nuovo numero uno dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, di Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha deliberato appunto l'avvio di conferimento per l'incarico. I 100 secondi di Radio 24, sole 24 ore. Allora, oggi abbiamo scoperto che sono complessivamente 3.400.000 i pensionati che riceveranno quest'anno la quattordicesima, ossia i pensionati con più di 64 anni con un reddito complessivo individuale annuo fino a 13.000 euro, due volte il trattamento minimo. E nel dettaglio sono 2.125.000 i pensionati con redditi individuali fino a una volta e mezzo il trattamento minimo e 1.250.000 i pensionati con redditi tra una volta e mezzo e due volte il minimo. Su questo si concentrano, come anticipavo, i 100 secondi di Radio 24, sole 24 ore, oggi a firma del vice direttore Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Salvatore Padula. Tra alcune settimane, nel mese di luglio, 3.400.000 pensionati che hanno almeno 64 anni riceveranno la quattordicesima. Non per tutti si tratta di una novità, ma la legge di bilancio di quest'anno ha fortemente ampliato la platea dei destinatari di questa somma aggiuntiva. Fino all'anno scorso l'assegno della quattordicesima spettava solo ai pensionati con un reddito complessivo fino a una volta e mezzo il trattamento minimo pensionistico, pubblico, parliamo più o meno di 9.800 euro all'anno. Da quest'anno invece la quattordicesima va anche a chi ha un reddito complessivo più elevato, fino a due volte il trattamento minimo, quindi ora sono interessati grosso modo 1.200.000 pensionati in più che hanno redditi fino a circa 13.000 euro all'anno. A seconda della combinazione del reddito e dell'anzianità contributiva, questi pensionati riceveranno un importo compreso tra 330 e 655 euro, importi pure ridefiniti con la manovra, con un costo aggiuntivo non indifferente pari a 800 milioni di euro all'anno. È una misura pensata giustamente per sostenere i pensionati più poveri che, come si ricorderà, non hanno ricevuto i famosi 80 euro dati ai lavoratori dipendenti, ma è una misura che purtroppo non sempre c'entra l'obiettivo. Lo dice la Banca d'Italia, che ha calcolato che circa il 30% delle risorse aggiuntive, ovvero 240 milioni, andranno a pensionati che poveri non sono perché vivono in famiglie con redditi elevati. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora 349-238-6666 per sms e whatsapp e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Andiamo adesso subito al primo tema e quindi, come ricordavamo, le partite che si stanno giocando, tutte molto diverse, ma che hanno in comune denominatore il futuro industriale di un pezzo dell'industria di questo paese. Difficile tenere assieme Ilva, Alitalia e Fincantieri, dopodiché l'ha fatto oggi Paolo Bricco su Sole 24 Ore, secondo me con un taglio originale, ma io sono di parte, non dovrei dirlo. Sistema Italia al test decisivo di tre partite industriali. Paolo Bricco, buonasera. Sì, buonasera. Ciao, Paolo. A te, buonasera a tutti i radioascoltatori. Grazie a nome loro, grazie anche a dottor Andrea Goldstein, che è capo economista di Nomisma. Buonasera anche a lei. Buonasera anche a voi. Dunque, Paolo, qual è l'idea? Perché tu dici test decisivo di tre partite industriali. Io ti potrei rispondere, vabbè, sono tre cose diverse. L'Ilva ha visto una gara vera e propria con due offerenti, ha vinto la cordata Marcegaglia SilorMittal con l'appoggio di Intesa San Paolo. La vicenda Fincantieri rispetto all'acquisizione francese di Cantieri di Saint-Nazaire, quindi cantieri importantissimi, era già chiusa, l'ha voluta riaprire Macron. La vicenda all'Italia è ancora in alto mare o in alto cielo, con 32 manifestazioni di interesse, ma che vogliono dire in questo momento tutto e niente. Allora, cosa tiene assieme queste tre vicende? Prima di tutto la dimensione dei soggetti coinvolti. Stiamo parlando di grandi imprese, e che in un'Italia segnata ormai dalla ineluttabilità della piccola azienda, in qualche maniera costituiscono delle rarità. E quindi prima di tutto abbiamo sul tavolo la possibilità per l'Italia di continuare ad avere una dimensione di grande impresa che sembra oggi negata dalla storia. Da qui dobbiamo ripartire per capire se possiamo o no gestire problemi complessi che sono i problemi delle grandi imprese. All'Italia quindi i trasporti, la logistica, ormai come dire in via di dissolvimento, bisogna capire se riusciamo a recuperare una partita dove siamo sotto 6-0-6-0, Ilva, diciamo ci siamo, in qualche maniera con ArcelorMittal si riparte, e dall'altra parte Fincantieri, il grande problema della capacità italiana di non chinare lo sguardo sui mercati internazionali quando le altre politiche, che sono molto più forti e coese, dure e toste della nostra, mantengono, rappresentano e tutelano gli interessi particolari nazionali. Quindi il fil rouge è la possibilità italiana di non avere una condizione sempre minoritaria, che purtroppo è molto collegata al fatto, se accettiamo che non possiamo che essere un paese di piccole imprese, di grande livello, di grande qualità, di artigiani straordinari, geniali, ma con una magnitudo diciamo finanziaria, industriale, tecnologica e anche politica sui grandi influencers dei giochi globali, piccole se non inesistenti. Allora, io ti potrei obiettare, perché questo è anche il mio ruolo, Paolo. Beh, sì, però attenzione. Fincantieri il problema l'ha creato un atteggiamento poco corretto, non ho problema a dirlo, della Francia, perché tu non puoi firmare un accordo per una trattativa in cui facciamo entrare anche la Cassa del Piano di Trieste, perché così chiedi tu per dare garanzie ai sindacati. Ricordo che i cantieri di Saint-Nazaire erano in mano ai sudcoreani, non erano in mano ai francesi. E poi Macron, finite le elezioni, si sveglia e dice: no, beh, non mi va mica tanto questa operazione. La vicenda invece all'Italia, anche qui tu ricordi il ruolo per il sistema paese, ma qui da quello che si capisce l'azionista nuovo Etihad non è che le abbia imbroccate tutte, nel senso che non ha sviluppato il long haul, la distanza delle lunghe rotte, non ha dato quella spinta che sembrava dover dare, e all'Italia è rimasta in mezzo al guado. Nella vicenda invece Arcelor, Mittal, Marcegaglia, quindi per l'aggiudicazione dell'IVA, l'abbiamo risolta a casa nostra. Cioè, in alcuni casi la colpa, se così vogliamo dire, non è nostra, è, diciamo, dell'azionista straniero o del paese straniero, Paolo. Sì, però c'è una grande centralità in tutti questi tre casi così diversi della politica. La politica, non bisogna pensare a rigurgiti di interventismi o nostalgie per programmazioni economiche anni 60 e 70, ma la politica oggi conta. La politica l'abbiamo vista negli Stati Uniti con Trump e lo vediamo tutti i giorni anche in Europa. Nel caso di Ilva la politica ha avuto la forza di tirare una riga lunedì e anziché fare rientrare nel caos la vicenda Ilva, questa è un'opinione personale, ma comunque la politica in quel caso ha preso una decisione forte, ha detto: ok, per noi la cosa è chiusa, Ilva, ArcelorMittal, Marcegaglia. E quindi ha fatto una scelta netta e in qualche maniera ha stabilizzato la situazione. Allora, dall'altra parte lo stesso, bisognerà vedere come riuscirà a comportarsi la politica italiana, che è costitutivamente debole, nei confronti di una politica francese che è per definizione fortissima e che in questo momento con Macron ha anche un grande carisma pubblico. Quello è un grosso banco di prova. Allora, dottor Goldstein, intanto se è d'accordo che ci sia, come dice Bricco, in questi tre test un filo rosso, un comune denominatore legato ancora alla capacità che un paese ha non solo di basarsi sulle importantissime piccole imprese italiane, imprese artigiane, ma anche insomma su partite grosse. Fincantieri è un gioiello, un'eccellenza nel mondo della cantieristica navale, l'acciaio, siamo i secondi produttori in Europa, e qui mi riferisco all'Ilva, e su Alitalia, diciamo, non è tanto Alitalia in sé, ma riuscire a gestire quello che dovrebbe essere il principale soggetto di fideraggio, anche se non è così, ma insomma di portare, diciamo, turisti in Italia, non è cosa da poco. Lei è d'accordo su questo, che ci sia comunque un legame tra i tre? Sì, sono d'accordo sul fatto che esiste un filo rouge, sono settori tutti strategici in cui nessun imprenditore privato può muoversi comunque in una maniera che è lontana dalla politica. Tra l'altro nel caso di Fincantieri è vero che è un soggetto privato, di diritto privato, ma comunque una partecipata pubblica. Sì. Sono anche d'accordo sul fatto che le nostre piccole e medie imprese hanno tenuto in piedi il paese, ma c'è stata una mistica del piccolo e bello che è diventata una mistica del medio bello. Ora grazie al cielo che c'è il medio e non c'è soltanto il piccolo, e grazie al cielo che c'è il medio quando il grande è scomparso. Però come dice Paolo, poi sono dei settori in cui non necessariamente la domanda mondiale cresce in maniera così accelerata, alcuni sì ma non tutti, in cui comunque il paese non può concentrarsi e accontentarsi, quindi bisogna essere anche capaci per attrarre grandi investimenti internazionali di dimostrare una capacità di gestire dei sistemi complessi, e da questo punto di vista l'Alitalia comunque è emblematico, perché il settore può essere maturo ma è ovviamente un settore estremamente complesso da gestire. Devo dire che c'è anche un approccio che è sempre un po' paradossale a tutto ciò che è investimenti esteri nel nostro paese. Ci strasciamo le vesti quando ci sono delle acquisizioni di marchi, in particolare simbolici del Made in Italy, poi ci dimentichiamo che tante volte gli investitori stranieri non guardano proprio l'Italia, infatti le classifiche internazionali ci penalizzano tuttora, e nello stesso tempo che ci sono poi dei casi, qui Etihad è abbastanza simbolico, in cui non è che abbiamo fatto tutto questo gran bene gli investitori stranieri, quindi un maggiore realismo nell'affrontare questi temi sarebbe secondo me opportuno. Allora, dopo il meteo e la pubblicità, vorrei capire un'ultima cosa, cioè il cosa fare, il che fare adesso, perché qualcuno mi scrive provocatoriamente, ma basta, diciamo ai francesi che non la compriamo più e si arrangiassero con i cantieri di Saint-Nazaire. Non è esattamente così facile, perché Fincantieri, che è l'unico costruttore cantieristico al mondo che riesce a realizzare tutte le tipologie di mezzi navali a elevata complessità, cioè va dalle navi militari all'offshore, dalle navi speciali, traghetti, ai mega yacht, alla riparazione e chiaramente alle navi da crociera, e ha 19.000 dipendenti, ha tra virgolette un grosso interesse nei cantieri STX di Saint-Nazaire, perché lì c'è il bacino, l'abbiamo spiegato molte volte, di carenaggio lungo quasi un chilometro, dove si riescono a costruire navi da 220.000 tonnellate di stazza, navi da crociera, a Monfalcone il limite è 180.000, per cui non è così facile dire beh, arrangiatevi, nazionalizzate i cantieri di Saint-Nazaire. Vorrei capire però che cosa dovrebbe fare la politica caso per caso, perché adesso scorporiamoli, non sono tutti uguali. Occorre una politica forte sulla vicenda Fincantieri, sulla vicenda Ilva, e vorrei capire con Brico come si può anche cercare di ammortizzare il più possibile il colpo sul fronte occupazionale, e la vicenda all'Italia, che cosa dobbiamo chiedere alle controparti. Dopo il metodo, la risposta, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Paolo Bricco, partita per partita, come si possono chiudere? Iniziamo da e che cosa dovrebbe fare, poi lo chiederò anche a Goldstein. Il governo italiano, visto che stiamo dicendo che sui grandi soggetti negli altri paesi si muove anche la politica e il governo, e ti servono anche i grandi soggetti. Qualcuno mi dice: siete riconoscenti con le piccole? No, abbiamo sempre elogiato le piccole imprese, le imprese artigiane, ma non si può vivere solo di quelle. Allora, le tre partite, Bricco, in estrema sintesi. Sì, in estrema sintesi, su Alitalia il governo deve esercitare la vigilanza che gli è anche garantita dal fatto che tecnicamente l'Ilva entrerà nella piena proprietà di ArcelorMittal e di Marcegaglia in un anno. Quindi ciò che ArcelorMittal ha promesso, per dire subito, l'assunzione di 1.000 persone in più rispetto a quelle prospettate 3 giorni fa, lo faccia, prima cosa. Seconda cosa, che rispetti l'impegno a non chiudere nulla in Italia di quanto appena acquisito, qualora l'antitrust europeo dicesse che Arcelor deve ridurre capacità produttiva europea. Da questo punto di vista c'è un elemento positivo, per una volta, cioè gli impianti di ArcelorMittal, ad esempio in Germania, in particolare a Duisburg, vanno molto male, e quindi dovrebbe orientare la chiusura o comunque la riduzione di capacità produttiva in Germania, per cui non avrebbe, probabilmente non avrà neanche la tentazione di fare qualcosa che comunque per contratto non deve fare e su cui in ogni caso il governo deve mantenere la sua vigilanza. Per quanto concerne all'Italia, secondo me ha già fatto quanto doveva fare e secondo alcuni ha fatto anche troppo, cioè la garanzia di un prestito ponte importante che consenta di arrivare fino a fine anno e quindi alla manifestazione di interessi vincolanti, e quindi in qualche maniera si è fatto soggetto attivo del non dissolvimento di Alitalia, che ricordiamo l'è ridotta a uno straccio. E per quanto concerne Fincantieri, Vedremo che cosa succederà, che comportamento avranno Gentiloni e Calenda, vedremo anche che governo ci sarà nei prossimi mesi in Italia, ma è evidente, e questo è il problema, ma è evidente che in ogni caso deve essere forte il sostegno e la parola ai francesi, secondo cui i contratti tra soggetti privati vanno rispettati in toto. E in ogni caso io credo che questo sia una banco di prova importante nei confronti della Francia e della Germania, per mostrare che gli imprenditori italiani non sono soltanto accompagnati ai cocktail e ai lunch dai loro governanti e dalla classe dirigente politica, ma vengono anche sostenuti nei momenti duri. E devo dire, qui la conoscete la mia opinione, alcuni la coglieranno come chissà quale endorsement. Io penso che Carlo Calenda sia un ottimo ministro da questo punto di vista, perché conosce la materia di carattere industriale, e ha anche posizioni nette, devo dire, nei confronti dell'Italia. Non le ha mandate a dire Etihad, nei confronti della gara per l'Ilva ha detto non si possono rifare le offerte dopo che sono aperte le buste, riferito invece a Jindal, a chi ha perso, aumentando a questo punto il numero di occupati, l'investimento complessivo, potevate farlo prima. E devo dire, con Macron, con il governo francese, Calenda ha detto sediamoci, vediamo, siamo disponibili a guardare tutte le ipotesi. Speriamo che però questo poi voglia anche dire mantenere la barra dritta. Chiuso il mio endorsement inutile, ma soprattutto privo di secondi fini, a Carlo Calenda, vorrei sentire la posizione anche di Goldstein. Brico dice: su Arcelor farsi dare la garanzia dei 1000 occupati in più rispetto al piano iniziale, e del fatto che se l'antitrust europeo dovesse dire che ArcelorMittal ha una posizione eccessivamente dominante, si vanno a chiudere impianti non così produttivi in altre parti, per esempio Germania, ma non si tocca l'Ilva Taranto. Su Alitalia, avanti così finché non si aprono, non arrivano le offerte vincolanti, e invece per quello che riguarda Fincantieri, dare il senso che un accordo tra privati non può essere stracciato dal Macron appena eletto. Goldstein, lei cosa farebbe? Sono assolutamente d'accordo con Paolo, le due prime dossier. Aggiungerei che in due casi bisogna poi integrare le prossime scelte, non è che tutto finisca con la cessione dell'Ilva, non è che tutto finisca con l'auspicabile integrazione di Italia in un altro più grande. Bisogna poi vedere come si evolve la politica europea di trasporti, ed italiana in particolare. Dico europea perché nel caso di Taranto ovviamente ci sono dei grossi interessi legati alla nuova via della seta, la cosiddetta Belt and Road Initiative. Certo. E lì bisogna, ovviamente, è un discorso che va al di là della Ilva stessa, ma ovvio che tanto non può che essere, il suo futuro dipenderà anche dalla capacità di intercettare alcuni dei flussi di traffico, quindi non finisce qui la storia. Lo stesso vale per il piano nazionale degli aeroporti, ci sono dei grossi investimenti previsti a Fiumicino, ma anche a Malpensa. È chiaro che sarebbe meglio avere una compagnia di bandiera, ma piuttosto che facciarsi la testa bisogna pensare come fare quando, come è probabile, non ci sarà più. Nella migliore dei casi ci sarà un marchio che apparterà a un gruppo più grande, speriamo che questo sia l'esito. Sulla questione Fincantieri penso che sia particolarmente complessa, perché lì di nuovo si inserisce in un discorso di razionalizzazione europea. C'era un progetto che per una volta vedeva l'Italia in un luogo, in una posizione di leadership e di costituzione di un campione europeo per la cantieristica, e questo secondo me è l'aspetto che l'Italia anche a livello europeo, quindi non solo bilaterale, deve incidere di più, mostrare che molti degli argomenti che vengono avanzati sono pretestuosi, mettere forse anche in dubbio la legittimità e l'opportunità di far entrare due dei principali clienti della cantieristica, degli acquirenti delle navi, nella compagine azionaria di STX. Insomma, sono tutte cose su cui bisogna guardare con attenzione. Fare gli offesi, ecco, l'unica cosa che sarebbe sbagliata sarebbe fare gli offesi, perché è vero che è un contratto tra soggetti privati, ma è vero che c'è una clausola che comunque dava al governo la possibilità di intervenire entro 60 giorni, quindi fare gli offesi sarebbe una strategia buttata al disastro. Anche perché poi non si va da nessuna parte, tra l'altro molti mi fanno notare che con l'acquisizione francese Fincantieri potrebbe partecipare anche a gare più grandi in Australia e in altri continenti. In una battuta, mentre ci ha già raggiunto in collegamento l'ospite del prossimo tema, che è in realtà in continuità, perché Stefano Franchi è direttore generale di Federmeccanica. Buonasera anche a lei, direttore. Buonasera, buonasera. E qui parliamo della produzione industriale della metalmeccanica italiana, però in un 30 secondi scarsi, Paolo Bricco prima e poi Goldstein, temete che tutto questo si possa interrompere per via della variabile politica, ossia elettorale? Paolo? Sì, sì, francamente sì. Questo diciamo che... Ok, no, sì, francamente sì, mi sì. Basta. Goldstein? Indubbiamente, nel senso che la politica rimane il nostro ostacolo principale, e quando ci sono le elezioni di cui non si sa gli esiti, ovviamente tutto diventa ancora più ostico. Grazie, grazie a Paolo Bricco da un lato, del Sole 24 Ore, al capo economista di Nomisma Andrea Goldstein dall'altro, traffico, e poi andiamo a commentare i dati diffusi oggi da uno dei pilastri della nostra base di impresa, e mi riferisco all'industria metalmeccanica. 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda, è in mani sicure. Gondrand.it vi presenta Focus Economia. Di nuovo in diretta per commentare, dicevo, i dati diffusi oggi, l'indagine di Federmeccanica sui primi tre mesi del 2017, del 2016, scusatemi, ultimo 2016 con il raffronto sul 2017. Devo dire che il dato è migliore sul trimestre anno su anno, invece non è buono il congiunturale, cioè i primi tre mesi del 2017 sugli ultimi tre mesi del 2016. Direttore Franchi, buonasera di nuovo. Buonasera a lei, Barisone. Se vuole commentare anche quello di cui parlavamo prima, volentieri, certo. Perché voi rappresentate, cioè, l'industria metalmeccanica italiana, sono 16.000 imprese associate, 800.000 addetti, l'importanza che anche sulle grandi operazioni si senta il paese dietro, e poi commentiamo i dati. 8% del PIL nazionale e 50% delle esportazioni del paese, quindi è sicuramente il pilastro della nostra economia. Sui dati che ricordava lei, vorrei fare una precisazione, penso sia utile, sul dato congiunturale, perché è vero che una prima lettura, quel meno 0,6, può sembrare negativo, però c'è da considerare che è molto condizionato questo meno 0,6 dal meno 4 di gennaio rispetto a dicembre. Le sa, Barisoni, che la destagionalizzazione contiene dei criteri di calcolo che poi non sono corrispondenti all'andamento reale dell'economia e della produzione industriale. Perché è importante vedere poi quello che è successo, Barisoni, a febbraio su gennaio e a marzo su febbraio. No, ma perché adesso, senza addentrarci troppo, sì. Ma quindi ci sta dicendo che il dato... Ti dico che anche il dato congiunturale è buono, non è male, anche ma guarda, io per abitudine guardo sempre il tendenziale anno su anno, anche per abitudine radiofonica, la radio stagionale, e quindi tu vai a vedere il trimestre. Comunque anche il congiunturale, febbraio su gennaio 2.2 in più e marzo su febbraio 2.2 in più, quindi anche il congiunturale non è un dato negativo come si può leggere a una prima occhiata. Il dato invece tendenziale, lo diceva lei, più 3,8, ecco, mi permetta di dire, Barisoni, che questo è un altro metro su un percorso lungo chilometri, perché noi non dobbiamo scordare e non scorderemo mai qual era il dato della produzione industriale prima dell'inizio della crisi. Quanto siamo sotto ancora, Franchi? Siamo sotto parecchio, meno 27%, per questo che dicevo è un metro su un percorso di chilometri. Il nostro obiettivo, cioè, siamo ancora sotto di un terzo nella produzione metalmeccanica rispetto al 2007. Esatto, meno 27 punti percentuali, quindi soddisfazione sicuramente per questo 3.8 dato tendenziale, però c'è ancora tanto tanto da fare, e quindi dobbiamo essere ancora più determinati, ancora più convinti, perché poi ognuno possa fare quello che è nelle proprie possibilità, ma l'obiettivo, Barisoni, deve essere quello di tornare là dove eravamo. Allora Franchi, resti con noi, adesso ho il GR24, poi vorrei capire un'ultima cosa prima di passare ai mercati e alla vicenda delle popolari venete, o meglio la vicenda delle popolari spagnole e così le ripercussioni che può avere su quelle venete. Vorrei capire dopo che cosa sta contribuendo, fermo restando che lei ci ha dato la misura stessa della profondità diciamo, della caduta dopo la crisi, meno 27% ancora rispetto al 2007, ragazzi, nella produzione industriale del settore metalmeccanico. Però che cosa sta contribuendo di più alla ripresa, per quanto ancora del tutto insufficiente? Ecco perché bisognava stare attenti a dire l'Italia ha svoltato, siamo in ripresa, quando tu sei arrivato a livelli così bassi. Che cosa ha contribuito di più però su questi dati? 349-238-6666 per SMS e WhatsApp GR24. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, stavamo concludendo l'intervento e l'intervista con il direttore generale di Federmeccanica, Stefano Franchi. Ricordo appunto 16.000 imprese associate per quasi 1 milione di addetti, con un dato che è buono sia sul tendenziale, cioè i primi tre mesi del 2017 rispetto ai primi tre mesi del 2016, più 7,4% il valore aggiunto prodotto ogni anno, ma il dato sull'indagine più 3,8% il tendenziale, e come spiegava adesso Franchi, anche un dato destagionalizzato buono sul congiunturale, trimestre su trimestre. Che cosa, Franchi, ha contribuito di più a questo dato? Fermo restando, che voglio ricordarlo per la terza volta, quanto lei ci ha comunicato, che l'industria metalmeccanica italiana rispetto ai livelli pre-crisi è ancora sotto di un 27% come fatturato. Prego. E 260.000 posti di lavoro in meno. E 260.000 posti anche di lavoro. Anche questa è un'altra cosa, caro Barisoni, che non possiamo e non dobbiamo mai scordare. Cosa ha contribuito più di più rispetto al resto? Sicuramente la crescita dell'economia mondiale. D'altronde gli analisti e gli istituti di ricerca stanno rivedendo tutti un po' al rialzo le stime di crescita per l'anno in corso. Il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto da 3,4% di crescita dell'economia mondiale a 3,5%, e quindi la crescita dell'economia mondiale ha portato ad un aumento delle nostre esportazioni, soprattutto verso quei paesi che hanno visto rafforzare la propria economia. La Cina, ad esempio, con un 6,6% in più nel 2017 rispetto al 2016, e anche Barisoni, la Russia, che l'anno scorso segnava un meno 0,2, quest'anno è tornato col segno più 1,4, anche questo è un dato importante, così come pure in Brasile si passa da un meno 3 a un più 0,2, quindi la crescita delle economie dei paesi emergenti e non hanno contribuito a un aumento delle esportazioni che nel primo trimestre del 2017 rispetto all'anno precedente segna un più 8,9% nel settore metalmeccanico. Un dato interessante riguarda la Arizona, le esportazioni verso gli Stati Uniti. Perché è interessante? Perché rispetto al 2010, quando gli Stati Uniti erano un paese sì importante per la metalmeccanica, ma sul totale delle esportazioni soltanto il 5,8% andava negli Stati Uniti, oggi siamo al 10%, più del 10%. Beh. Quindi dal 2010 a oggi le esportazioni verso gli Stati Uniti sono aumentate di più del 100%. Gli Stati Uniti oggi sono il secondo paese dopo la Germania verso il quale la metalmeccanica esporta di più. Quindi questo è un dato importante e noi ci auguriamo, io mi auguro che gli slogan protezionistici, caro Barisoni, rimangano tali. Questo però non dipende né da noi né da voi. Esatto. Vedremo cosa farà Trump su questo. Grazie di nuovo al direttore generale appunto di Federmeccanica, Stefano Franchi. E passiamo dall'industria, l'abbiamo affrontata prima con i tre casi, appunto Fincantieri, all'Italia e Ilva, adesso con il dato tendenziale congiunturale dell'intera industria metalmeccanica italiana, passiamo invece alla borsa. Giornata oggi tutto sommato positiva, Milano più 0,20%, mentre Parigi fa meno 0,70%, Francoforte meno 1%, Londra invariata, Dow Jones meno 0,1%, euro in leggero rafforzamento 1,1271. Tra i titoli, da un lato UX Net-a-Porter meno 2,90, Moncler meno 1,80, Banco BPM meno 1,5 come Saip, MB per Banca ed ST Microelectronics, dall'altro Fineco Bank più 2,30, A2A più 1,86 e ancora Enel più 1,40, Terna più 1,20, Case New Holland Industrial CNH più 1%. Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Dunque, mi sembra che oggi salgano, sopra, al di là del caso Fineco Bank, i titoli difensivi, quindi A2A, Enel, Terna e anche Snam più 0,80, Eni più 0,80%. Deboli le banche e di nuovo abbiamo visto Mediaset altalenante più 0,30%, quindi titoli difensivi, banche e Mediaset. Sì, assolutamente, il movimento di titoli difensivi è stato confermato anche da altri asset difensivi come lo yen, che ha recuperato molto terreno nei confronti di euro e dollaro, e anche dei titoli di Stato, con in particolare Bund, i titoli di Stato americani che sono stati molto, molto acquistati. Tra i difensivi direi da segnalare anche Enel, che ha guadagnato l'1,4% perché ieri ha fatto un paio di annunci importanti nel settore delle rinnovabili, avviando un parco, il più importante parco solare in Brasile, acquisendo in Italia due parchi eolici in Campania. Dicevi giustamente invece l'incertezza per quanto riguarda il settore bancario, che sta proseguendo e si sta vedendo in particolare con le vendite su Banco BPM e la Popolare dell'Emilia Romagna, che hanno perso entrambe l'1,5%, più Piata Intesa, bene invece Unicredit, perché gli analisti di Mediobanca Securities l'hanno inserita tra i migliori titoli insieme a Eni, Prismian, CNH e Ferrari, su cui puntare nella seconda parte del 2017. Volatilità ancora su Mediaset, che è tornata ai livelli minimi da metà dicembre del 2016. Ieri le parole di apertura nuovamente dell'amministratore delegato di Vivendi e presidente di Telecom Italia, De Puy Fontaine, che ha parlato della possibilità di partecipare all'asta per i diritti del calcio, così da avere una materia di scambio o comunque di dialogo, di equilibrio insieme a Mediaset. Ma l'opinione comune è che difficilmente Vivendi faccia mosse forti nell'azionariato, per cui il piccolo azionista ha venduto il titolo Mediaset. Oggi un piccolo risveglio sul finale, il titolo ha chiuso a più 0,3, ma sostanzialmente una situazione di debolezza, in attesa di capire veramente che cosa farà Vivendi sia sul fronte Agcom sia sul fronte diritti del calcio. E tra l'altro i francesi sbarcano a Milano con una SPA che investirà proprio in contenuti di intrattenimento, no? Cinema e sport. Sì, questo è quello che hanno annunciato, l'importanza della convergenza con le TLC, passando attraverso dei contenuti pregiati da mettere a disposizione dei propri abbonati di linee telefoniche. È il discorso su cui Vivendi sta puntando con la sua società di riferimento in Italia per questo momento, Telecom Italia. Creeranno Vivendi Italia, bisognerà vedere, e lo scopriremo nel giro di pochi giorni, visto che le aste sono nel weekend, tra il weekend e l'inizio della prossima settimana, se Vivendi sarà anche in grado di mettere tra questi contenuti importanti, oltre al cinema, anche contenuti sportivi, tra cui quelli pregiati del calcio per la Serie A e per le coppe europee di calcio. Allora, migliori e peggiori in assoluto, Casta Diva più alla fine, l'ultimo, la variazione percentuale è più 44%, Landi Renzo più 19%, Italia Online più 9,90%, Visibilia Editore più 9%, fronte opposto City Biofarma meno 11,70%, ancora la Juventus paga la mancata vittoria nella finale di Champions meno 11%, Gruppo Green Power meno 8,60%, Pininfarina meno 8,5%, Volkswagen meno 7,20%. Grazie anche ad Andrea Fontana, andiamo sul traffico e poi cerchiamo di capire come la vicenda della banca, il crollo, la crisi del Banco Popolare in Spagna possa, ammesso che possa, influire anche sulla vicenda ancora incagliata delle nostre due popolari, ossia Veneto Banca e Popolare di Vicenza. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. Dunque, Dunque, come raccontavamo anche ieri, qui c'è una banca che si chiama Banco Popular, che ha perso il 48% in borsa negli ultimi 4 giorni, è una banca spagnola. La capitalizzazione ormai è ridotta a 400 milioni di euro, un anno fa pensate che aveva 6 miliardi di euro di capitalizzazione, anche oggi di nuovo in calo netto. Il presidente Emilio Saraccio e l'amministratore delegato Ignacio Sánchez Azaín oggi hanno incontrato a Francoforte il responsabile della supervisione bancaria della Banca Centrale Europea. C'è una soluzione, c'è chi ha anche ipotizzato una soluzione modello Monte dei Paschi di Siena, mentre nel frattempo è ancora in stallo totale la situazione della Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, perché l'Europa ha chiesto ai privati di metterci 1 miliardo se vogliamo sperautorizzare l'ingresso del tesoro con 3 miliardi e 700 milioni, cioè ha levato 1 miliardo di fatto la partecipazione del tesoro per chiedere che venga messo dai privati. Però i fondi, a partire dal Fondo Atlante, hanno detto: noi abbiamo già dato tutto il possibile sulle due banche. Fabio Pavesi del Sole 24 Ore, buonasera Fabio. Ciao, buonasera. Esiste un collegamento tra la difficoltà che ha il Banco Popolare, schiacciato da 28 miliardi di sofferenze bancarie, e la possibilità che Bruxelles la smetta di dire: il problema è italiano, risolvetevelo da soli, e magari mettendo i bastoni tra le ruote, dimenticando, con memoria molto breve, da un lato le centinaia di miliardi che i vari paesi, 170 la Germania, 38 l'Olanda, hanno messo negli anni scorsi per salvare le loro banche, ma soprattutto adesso che il problema ce l'ha anche una banca importante come quella spagnola, uno potrebbe dire: beh, forse Bruxelles si convince che il tema va affrontato in maniera sistemica. È troppo ottimistica come lettura? No, a noi è incuriosito questo fatto, cioè il Banco Popolare non è una banchettina, è il quarto gruppo spagnolo, ha le dimensioni di Monte dei Paschi e aveva superato gli stress test di luglio 2016, cioè il tema è: una sola banca è stata bocciata in quei famosi stress test. Monte dei Paschi. Il Banco Popolare l'ha superato per il rotto della cuffia, cioè nello scenario avverso i tecnici sostenevano che il core tier 1, cioè il capitale a supporto della banca, scendeva al 7%, che comunque è una percentuale bassa, ma come dire, gli ha fatto superare gli esami. Succede una cosa strana, perché improvvisamente la banca passa gli stress test, 6 mesi dopo fa una maxi pulizia di bilancio di più di 4 miliardi di crediti malati dell'immobiliare. Ricordiamo che la Spagna ha avuto una bolla immobiliare gigantesca, ma ha anche avuto la bad bank, quindi questa banca aveva già trasferito i suoi crediti malati alla banca pubblica. La Spagna ha fatto richiesta nel 2012 al Fondo Europeo di Salvataggio per 100 miliardi di euro, quindi, per ricapitalizzare, diciamo, con 53 miliardi diretti le banche, e poi ha creato una bad bank dove far confluire tutte le sofferenze. Quindi si presuppone che quel problema gli spagnoli l'abbiano risolto, tant'è che si parla delle banche italiane come problema sistemico e meno delle banche spagnole. Sorpresa, questa banca improvvisamente fa un buco di bilancio di 3 miliardi e mezzo in un solo esercizio. Quando siamo andati a verificare l'esito degli stress test, ci accorgiamo che l'EBA e la BCE sostenevano che nelle condizioni peggiori, apocalittiche, disegnate dai tecnici, il massimo delle perdite che il banco poteva sopportare erano 1,3 miliardi in 3 anni. Questi hanno fatto un buco a 3,5, cioè 3 volte di più in un solo esercizio. E uno si chiede, cioè viene il dubbio che questi stress test alla fine siano condotti, come dire, o in mancanza di alcuni dati o fatti in modo che non vedano poi le mie nascoste, perché il tema è: la similitudine col Monte dei Paschi è che tutte e due hanno lo stesso livello di crediti malati, cioè nonostante il buco da 3 miliardi e mezzo, il Banco Popolare ha tuttora 35 miliardi di crediti malati, che sono 3 volte il capitale della banca. È la stessa situazione in cui versa MPS. Uno si chiede: nonostante il buco da 3 miliardi e mezzo, per cui tu vai in sofferenza sul capitale, cosa che avevano escluso nella promozione su stress test, tu poi a questo punto hai tuttora lo stesso problema di Monte dei Paschi. Uno si chiede: ma allora a questo punto il tuo capitale non c'è più? Sì, questo però è correttamente. Questo è il problema del Banco Popolare. A me, non per essere provinciale, ma diciamo perché il resto italiano, interessa capire se a questo punto, visto che c'è una banca che ha appunto le dimensioni del Monte dei Paschi, che è andata sotto, e adesso se a questo punto secondo te Bruxelles può convincersi che Andare solo a dire altrimenti c'è il bail-in può significare un grosso problema non solo in Italia, e che speranza questo può dare alle Venete, ammesso che possa dare una speranza alle due Venete? Non credo sia un collegamento diretto. A noi aveva sorpreso molto il fatto che MPS è sui riflettori da più di un anno, cioè tutti sanno che MPS è la banca più malata d'Europa da più di un anno. Del Banco Popolare non ha mai parlato nessuno, ma neanche la stampa spagnola. Improvvisamente avviene questo ciclone, tant'è che quelle perdite gigantesche di borsa fatte in un arco di una sola settimana ti dicono che era un evento del tutto inaspettato, nel senso che sembra che il Banco Popolare stesse bene, cosa che non era vera. E quindi anche lì si pone un problema di comunicazione, cioè come mai sul Banco Popolare non c'era una lente accesa da almeno un anno quando lo era acceso su MPS? Ma ripeto, non per fare il patriota italiota, attenzione, no, ma ho capito. Segnaliamo un problema di trasparenza, cioè non si capisce perché quella banca spagnola su cui si vedeva che c'erano evidenti problemi e che i tecnici hanno sorvolato, perché se tu hai quella montagna di crediti malati tu non puoi fargli passare lo stress test, perché il Monte dei Paschi è stato bloccato proprio sul fatto che era una montagna di sofferenze che aveva provocato delle perdite sul capitale, cosa che invece è stata concessa alla banca spagnola. C'è una sorta di interpretazione un po' con delle diottrie, no? Sì, però, con una serie di diottrie. Però venendo e chiudendo sul tema delle banche venete, Fabio, sì. Al di là del fatto che Fabrizio Viola, del numero uno della Procura di Vicenza, abbia leggermente rettificato la sua intervista a Corriere della Sera, sì. Aveva ipotizzato un disastro vero e proprio per il sistema paese nel caso del fallimento di due banche, però poi ha rettificato leggermente, però evidenziando che vi sarebbero effetti, non potrebbero non avere effetti sul credito nelle aree di riferimento, quindi sul credito nel Veneto. È ovvio che le due banche venete sono una roba cruciale per lo stesso Veneto, cioè sono 80 miliardi di attivo, sono 70 miliardi di crediti bancari che per l'80% stanno. Sì, però non mi sembra che l'Europa si stia muovendo alla vestaglia della posizione a sorpresa che ha tenuto, cioè no. Se volete fare l'operazione con i soldi pubblici o con un miliardo di soldi privati. Sì, anche lì il problema è il tempo, cioè tutti si accorgono che le cose non funzionano e chiedono ulteriori, come dire, movimenti supplettivi quando avevano tutto il tempo di avvisare un po' prima. Cioè io mi sto chiedendo, ma questa questione del miliardo che manca, avendo i bilanci sotto mano, avendo gli studiati, andava segnalata non all'ultimo minuto utile, ma forse qualche mese fa, visto che anche l'evento è da più di un anno che sono. Sì, anche perché devo dire, il governo italiano, prima di varare il decreto salva banche da 20 miliardi, ha trattato a lungo con l'Europa, in primis sul Monte dei Paschi, ma insomma non era una cosa sconosciuta. Tutti adesso dicono che si è perso del tempo, oggi c'era un ex consigliere del Veneto Banca che sosteneva che si è perso molto tempo, lo stesso governatore della Banca d'Italia si è detto che lasciar marcire le crisi bancarie è assolutamente esiziale, però ci accorgiamo che si è perso tempo quando il tempo oramai è stato perso del tutto, non so come dire, cioè qui c'è un tema di fiducia, più lasci trascorrere nell'incertezza le questioni, più per le banche è un disastro, perché la gente, per non sapere leggere e scrivere, la prima cosa che fa è porta via i soldi da quelle banche lì. Io mi aspetto che sulle vene ci sia un effetto grosso sulla raccolta, cioè pur salvate, se si troveranno forse dei capitali privati, dico forse perché oggi solo un temerario metterebbe dei soldi su due banche che non ti daranno rendimento per chissà quanti anni, quindi un privato mette i soldi se può guadagnarci, non per perderci, cosa che è accaduta con Atlante, che infatti è durata solo un anno quell'avventura. Quindi trovare i soldi a prestiti sarà difficilissimo. E in ogni caso, in questo bailam, è ovvio che io mi aspetto tra tre mesi, sempre che non c'è stato il bail-in nel frattempo, certo, che la raccolta sia scesa di un altro 30%. Quindi vuol dire aver ammazzato le banche anzitempo, insomma. Questa è la gravità della situazione. E poi c'è una vicenda che ha seguito bene Corriere del Veneto, che ricordavo in apertura, le dichiarazioni del procuratore capo di Venezia, il procuratore generale Antonio Condorelli, ha detto in un'intervista a Corriere del Veneto: attenzione, è chiaro che questo disastro della Popolare affonda le radici in quegli anni, agli anni precedenti, e che la procura di Vicenza non riuscì a fare la sua parte, almeno non fino in fondo, nel controllo di legalità sull'amministrazione della banca e anche sull'operato degli stessi organi di vigilanza. Tra l'altro lì c'è una vicenda che non possiamo raccontare tutta, ma c'è un giudice, Cecilia Carreri, che punta il dito contro l'ex procuratore di Vicenza Antonio Foiadelli. Perché? Perché archiviò l'inchiesta che il giudice stava compiendo. Poi ci fu una vicenda molto sgradevole nei confronti della stessa Cecilia Carreri, da cui poi fu completamente scagionata. Ma dicevo, archiviò un'inchiesta in cui, secondo le parole del giudice Cecilia Carreri, già allora nel 2002 si dimostrava che mancava ogni forma di controllo sulla gestione verticistica e padronale di Zonin. Faccio notare, come ricordavamo prima, che lì c'è poi tutto il tema degli intrecci in chi doveva controllare, perché è vero che Antonio Foiadelli chiese l'archiviazione per Gianni Zonin. I sostituti procuratori generali veneziani, allora Pietro Emilio Pisani e Elio Risicato, fecero ricorso, la Corte d'Appello confermò la decisione di Vicenza, e poi scopriamo però che Foiadelli, per esempio, ha avuto un incarico collegato alla Popolare di Vicenza, consigliere di Nord-Est, Merchant SRL e non solo, perché poi questa storia torneremo a raccontarla altre volte. Grazie intanto a Fabio Pavesi, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni, l'augurio di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, libera la voglia di fare.